Tutti convocati Magazine di Carlo Genta. Ciao, buongiorno a tutti. Questa settimana ci siamo divertiti parecchio, addirittura doppietta per i turni di campionato, un sacco di sorprese e soprattutto tanta attesa per quello che stiamo per vivere. Franco Piantrini, dottore di questo programma, capitan Fabio Cantadori in regia. E allora cominciamo a ricordarci che cosa è successo in questa settimana a partire da domenica. Abbiamo ora affrontiamo la giornata di campionato con la Roma capolista, con il Napoli che ha perso un colpo, con la Juventus con qualche problemino, con il Milan in difficoltà e senza Balotelli, con l'Inter che vola dopo la vittoria sulla Fiorentina ed è seconda in classifica e nessuno credo se lo sarebbe aspettato. Però partiamo dall'inizio, dalla giornata di domenica scorsa. Ne abbiamo parlato con Giancarlo Padovan, che come al solito non ha peli sulla lingua. Io ho detto che siamo al 72%, oggi posso dire che siamo al 73%. Miglioriamo un po'. Ottimista. Sì, perché per me ancora si può migliorare tanto, che si continuiamo a lavorare così e se vince e si può migliorare un po' queste piccole cose sarà più facile vincere più partite. No, solo abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio. È un detto francese. Era una partita importantissima per noi e soprattutto per i nostri tifosi. E come ho detto prima della partita, un derby non si gioca, si vince. Direttore Giancarlo Padovan, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie dell'intervento. Grazie a voi. Mi ha risposto alla convocazione. Senti, ma qual è la vera sfidante? È Benitez al 73% o è chi porta la chiesa in piazza? Ma per me il favorito è il Napoli e quindi non è sfidante di nessuno, perché per me la Juventus oggi sta sotto al Napoli non tanto perché lo dice la classifica, ma perché lo dicono le prestazioni, e poi perché io mi ero sbilanciato per il Napoli già l'anno scorso e non ci ho azzeccato, diciamo così, anche se il Napoli è arrivato secondo, però a una distanza, non dico siderale, ma considerevole. E quest'anno invece già dopo il mercato e durante il mercato estivo mi ero sbilanciato per il Napoli, perché credo che per la Juve vincere tre volte di fila sia molto difficile. Reggere il ritmo di Conte anche interno provochi qualche piccola discrasia. La Champions League porti via energie e anche qualche convinzione, e quindi per me il Napoli è il primo candidato alla vittoria finale. E dopo viene la Juve e dopo viene la Roma, perché secondo il mio punto di vista la Roma ieri ha giocato una buona partita da dopo il gol, ma prima del gol onestamente, anche se io avevo pronosticato Roma, devo dire che avrebbe meritato la Lazio. Ma direttore, è terribile l'approccio a questa partita per la Roma, considerando il pregresso, considerando gli umori, il clima, eccetera. Andava compreso, certamente, cioè era anche preventivabile se vogliamo, però ha lasciato un po' troppe giocate alla Lazio, ha lasciato anche campo alla Lazio, ha lasciato occasioni alla Lazio, anche considerevoli, importanti, significative, e quindi questo approccio che era timoroso, che era timido se non timoroso, le sarebbe potuto costare caro. E un altro stop invece è venuto un trionfo che, come dice Garcia, rimette la chiesa al centro del villaggio. Guardando la Juventus, secondo te il rapporto interno, ovviamente lo diciamo guardandola, senza essere in quello spogliatoio, ma il rapporto interno tra i giocatori e Conte mostra qualche segno di cedimento? Mostra un po' di stanchezza? Ma, L'ho detto prima e lo ribadisco, sì, per me sì, ma non perché io ne abbia io o qualche altro se ne abbia colto il sintomo, ma perché è inevitabile che sia così dopo due anni a pieno ritmo, a pieno regime e con una modalità quasi ossessiva, insomma, sì. Quindi è abbastanza prevedibile che sia così. E poi la Juve ha un problema che in qualche altra sede avevo preannunciato, il problema si chiama Pirlo. Pirlo non è più quello di una volta. Milan partito come l'anno scorso è già fuori? Ti domando? Io devo dirti che anche se non avessi assistito a questa partenza avrei considerato il Milan tra le favorite, sì. E quindi secondo me era già fuori prima, sì. Fuori nel senso che poteva ambire, può ambire solamente a un quarto, quinto posto, non di più. Secondo me quest'anno finisce fuori dalla zona Champions, ma potrei sbagliarmi naturalmente, anzi come tu sai i pronostici si fanno, ma perché certo. Sbagliano. A me lo dici. Se ne fanno sempre tanti nel tentativo patetico di qualche volta beccarne uno. Comunque io il Milan lo vedo male, ma lo vedevo male anche prima, gli infortuni hanno peggiorato la situazione, direi che dal punto di vista difensivo, sia della fase sia della retroguardia siamo messi molto male. Poi c'è l'incognita Balotelli, ieri ha fatto un gol stupendo e anche una prestazione veramente rimarchevole, di molto superiore a quella di Torino dove prese 6 nelle pagelle solo perché segnò, sì, in realtà certo. Ieri ha fatto molto meglio. Poi da fuori cosa vuoi fare? Il finale compromette tutto. Un'ultima cosa, tutto il meglio e il peggio anche dell'Inter, il meglio sul campo con una squadra che sembra giocare per il suo presidente anche se non ho capito bene se per quello vecchio o per quello nuovo, e il peggio fuori con, lo sai bene, i cori contro i napoletani, il Napoli, il rischio, articolo 11 alla mano della chiusura di San Siro, eccetera eccetera, perché siamo, questa normativa è stata ben presto, come temevo, trasformata in una pistola alla tempia delle società. Non so che dire di fronte a questa normativa perché la pistola alla tempia non è un bel elemento da commentare, però questi cori contro l'identità territoriale o questo razzismo d'andata e di ritorno oggettivamente non è sopportabile, quindi qualcosa va fatto. Qualcosa di drastico è sempre rimarchevole e secondo me non è accettabile, però oggettivamente siamo rimasti tra i pochi paesi che hanno ancora questo problema, certo. Legato al razzismo e alla territorialità. Per quanto riguarda la squadra, sei malizioso nel dire che non hai capito per quale presidente stia giocando, sì. Però devo dire che la tua malizia è molto fondata, cioè non si capisce se si vuole che Moratti rimanga oppure impressionare il nuovo proprietario o impressionare il Toier. Devo dire che il lavoro di Mazzarri è ottimo, voleva dire che quello di Stramaccioni era pessimo perché sta giocando con gli stessi giocatori dell'anno scorso. La partita di ieri secondo me non ha dimostrato molto perché il Sassuolo ha avuto un approccio disastroso alla gara e l'ha proseguita peggio. La verità la sapremo giovedì quando c'è Inter-Fiorentina, anche se io, se mi chiedi su chi punto, dico Inter, secondo me può arrivare terza. Sì, anch'io punto sull'Inter per la partita di giovedì almeno. Grazie direttore. Grazie a te, alla prossima. Tutti convocati Magazine. Abbiamo parlato dunque della giornata dello scorso weekend, ma nel frattempo c'è stato anche, come sapete, un turno infrasettimanale. Allora, altro direttore, altro giornalista senza peli sulla lingua, Savia Iacobelli con noi. T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Movimento centrale di Zaza, lo vede Kurtic, palla dentro, è in posizione regolare Zaza, prova ad andare alla conclusione, e gol di Zaza, il pareggio improvviso del Sassuolo, che fucilata da posizione impossibile di Simone Zaza. Attenzione al rinvio di Buffon, pallone dentro, porta il vantaggio al Chievo, al 28esimo, 1-0 Perterò, ventesimo gol in Serie A. Buona la finta, va dentro Garic, c'è ancora Christodoulopoulos da solo, il cross sul secondo palo, Diamanti prova a metterla dietro proprio per Cristaldo che gira! Anche lui! Anche Cristaldo segna il primo gol in Serie A! Adesso 3-1 per il Bologna! Piccola! Piccola! Certo, nella galleria dei gol, per la verità ci sarebbe anche questo. Sono stato anche il gatto, ma il questo che arriva, ma già avete capito. Piccola, già. Piccola. Non arriva? Piccola. Così. Non arriva, tu. Va bene. No, non è arrivato sul tabellino dell'arbitro, ma arriva qui. Tra me, riesce ad andare via. Mette dentro! Il tiro non respinto da Buffon! Ancora il Chievo, 2-1! E la rete della Chievo che viene annullata! Non è fuori gioco, no, non è assolutamente fuori gioco. Ti ha fatto servito, tu m'hai detto disgraziato, la pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Stiamo cercando di parlare pochissimo delle decisioni arbitrali. Oggi c'è stato un episodio a nostro favore e ne prendiamo atto, ma non è stato eclatante. Un domani qualcosa potrà accadere a nostro favore, come è già successo in questo avvio di campionato. Antonio Conte ieri a commento del gol di Palocci. Saluto un amico di vecchia data di Radio 24, Savia Iacobelli, oggi direttore di calciomercato.com. Ciao direttore. Buongiorno a voi, buongiorno agli amici produttori di calciomercato.com. Non sarà eclatante, ma errore è stato. Eh? Beh, si potrebbe discettare a lungo. Bravo, sull'eclatante o meno. Su quanto sia appropriato l'aggettivo eclatante. In realtà sì, eclatante lo è, come? Perché soltanto la sportività del Chievo e le reazioni di Sannino e di Campedelli sono lì a dimostrarlo, ha impedito che deflagrasse oggi la questione arbitrale. Non oso immaginare cosa sarebbe accaduto a parti invertite, o se anziché la Juventus ci fosse stata un'altra grande squadra. Ma la verità è che si ritorna sempre al punto di partenza, fino a quando il signor Blatter e il signor Platini, rispettivamente presidente della FIFA e della UEFA, che presumo dovrebbero andare in vacanza su un atollo del Pacifico portandosi una pietra focaia, sono convinti che la tecnologia non serva al calcio, noi purtroppo dovremo assistere a questi scempi, così come, per andare anche oltre confine, il Real Madrid ieri ha vinto una partita con un rigore che definire regalato è un eufemismo. Il problema è questo, la questione è sotto gli occhi di tutti. Con la tecnologia non è detto che si attenuino totalmente gli errori arbitrali, ma certo si riducono in maniera drastica i loro errori, si consente agli arbitri, agli assistenti, ai giudici di porta, ai quarti uomini, insomma al battaglione di ufficiali di gara che ormai va in campo ad ogni partita, di andare in campo con maggiore serenità, ma se così fosse gli arbitri perderebbero il potere di condizionare le partite con i loro errori naturalmente in buona fede. Questo è il succo della questione. Certo direttore, io ho un pensiero diverso, tu lo sai, a me piacciono le imperfezioni nel calcio e non sono così non ho questa esigenza di certezza del diritto, però io sono per, ovviamente, i sensori, per il gol non gol, per eliminare questi problemi geometrici, diciamo così. Per il resto l'imperfezione non mi dispiace. Ma concordo con te, ma il problema, vedi, come mai altri sport nobili, mi riferisco all'ultimo arrivato in ordine di tempo, il baseball, che ha ampliato il ricorso alla tecnologia a 360 gradi, poi assommo il football americano, per non dire del ciclismo, del basket, che in Italia addirittura ha segnato uno scudetto con l'instant replay, lo sci, insomma, abbiamo soltanto l'imbarazzo della scelta. Perché c'è questa opposizione politica, vorrei dire ideologica, se l'aggettivo non suonasse eccessivo, da parte del palazzo del calcio nei confronti della tecnologia? Perché è evidentemente uno strumento che spazza via le zone oscure, le zone opache, le zone di scarsa trasparenza. Io rammento ancora cosa disse Trapattoni all'indomani del furto clamoroso che subì la sua Irlanda nello spareggio per andare poi ai mondiali, vinto dalla Francia, colpo di mano di Gallas, di Thierry Henry, e poi Gallas che andò in gol. Thierry Henry peraltro è anche ambasciatore dell'Unicef, sorvoliamo. E Trapattoni disse: è inutile che la FIFA mi chieda di andare nelle scuole europee di mezzo mondo a parlare di fair play, di rispetto, di correttezza, quando poi succedono porcherie. Direttore, da calciomercato.com, Pirlo e Balotelli saranno o sono già casi di mercato? Allora, per quanto riguarda la tua diagnosi, la sottoscrivo. Diciamo che la Juventus accusa qualche linea di febbre, sì, di inizio autunno, e lo dimostra appunto l'andamento delle partite che tu hai citato. Per la prima volta quest'anno Conte sembra essersi convertito ad una rotazione dei titolari sempre più massiccia, lo ha dimostrato ieri sera pensando ovviamente a quello che lo aspetta in Coppa dei Campioni. Ci sono alcuni casi sul tappeto, il primo è quello di Pirlo, sino a domenica scorsa c'era quello di Llorente, ma secondo me è soltanto sopito, ma non è ancora chiarito. Credo che la trattativa per il rinnovo del contratto di Pirlo sarà particolarmente laboriosa e non è detto che vada a buon fine. Secondo me non c'è volontà da parte della Juventus. Secondo me non c'è volontà. Cominciano già a suonare le sirene, soprattutto inglesi, perché secondo me quella sarebbe la collocazione che potrebbe risultare ideale per un fuoriclasse del calibro di Pirlo, qualora decidesse di lasciarlo alla Juventus o comunque di non rinnovare il contratto per tutta una serie di motivi che ormai già ben conosciamo. Allergico molto alle sostituzioni di Pirlo, ne ha ben d'onde, perché quello che ha fatto per la Juventus nelle due precedenti stagioni è ormai consegnato alla storia del nostro campionato. Balotelli non credo, Balotelli ha capito, e qui bisogna sottolineare il comportamento della società Milan e dell'allenatore Massimiliano Allegri, che non può permettersi di ripetere le gesta di domenica sera per un'altra volta, perché ha danneggiato evidentemente la squadra. Ieri sera ha patito la sua assenza e soltanto il rabbioso rush finale ha consentito al Milan ancora una volta di riequilibrare un risultato, ma il Milan oggi accusa 10 punti di distacco dalla Roma capolista dopo solo 5 certamente giornate. Di converso il Milan non può permettersi di fare a meno di Balotelli, perché è una squadra che senza Balotelli vale il settimo posto, non di più. Sono d'accordo, forse temo anche qualche posto inferiore, qualche posizione inferiore, perché questa squadra ha visto la propria società non risolvere in estate il problema della difesa. Milan ha incassato 10 gol in 5 partite di campionato, 2 a partita, troppi. Sì. Allora, per chiudere, direttore, luci, grandi luci e grandi ombre della prima notte infrasettimanale. Nell'ombra c'è il Napoli per eccesso di turnover, secondo me. E ovviamente sotto i riflettori c'è una Roma bellissima, che per la prima volta forse esprime il suo potenziale. Sì, sono d'accordo per quanto riguarda la Roma, assolutamente, perché è una Roma che si è già consegnata alla storia, visto che mai prima d'ora aveva vinto 5 partite di fila nei primi 5 turni di campionato. E la mano di Garcia si vede come, e soprattutto bisogna rendere merito a Sabatini, perché nella stessa misura in cui era stato criticato immediatamente dopo la conclusione del campionato per il tempo perso alla ricerca dell'allenatore, saltabeccando da Allegri a Mazzarri a Blanc, ha fatto la scelta giusta al momento giusto, alla luce di come si sta comportando Garcia, che è un neofita assoluto nel nostro campionato, ma sembra vivere l'atmosfera e l'avventura del nostro campionato da diverso tempo. Napoli, io penso che sia legittimo, anche per uno squadrone come quello di Benitez, dopo 5 successi consecutivi, 4 in campionato, 1 in Champions League, a spese dei vice campioni d'Europa in carica, concedersi una pausa. Certo, ha contato l'effetto psicologico, ma comunque onore al Sassuolo. Rialzare la testa dopo i 7 gol presi in casa dall'Inter non era facile. Complimenti agli emiliani. Grazie, direttore. Grazie a voi, alla prossima. Un piacere come sempre, buon pomeriggio. Allora, voglio tornare a parlare della Roma. Voglio tornare a parlare della Roma, che ho detto, secondo me, per la prima volta esprime in pieno il suo potenziale per mano di questo signore che ha messo il telefono in tasca dopo aver telefonato la prima partita e adesso l'ha portata a 5 vittorie in fila. In harmony, one fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? De Rossi, Strootman, Benassia, azione di Benassia che viene messo giù al limite, fa il pallone in rete. La Roma è avanti al 20esimo. Sampdoria 0, Roma 1. Occhio, perché 3 contro 2, il contropiede della Roma, Totti centrale, a destra Pjanic, a sinistra Gervinho. Eccolo Gervinho, tutto solo, Gervinho! Il raddoppio della Roma è il primo gol in giallo-rosso di Gervinho, 2-0. Anche il pericolo viene de tutta parte, perché oggi ha fatto un gol incredibile Mehdi Benatia, che come un simbolo ha fatto un slalom e dopo aveva la possibilità di fermarsi sul rigore, però ha dato il massimo per fare il gol, e questo è come il simbolo della squadra. Convocati Magazine. Allora ci avviciniamo ora alla giornata di campionato che stiamo per vivere. È stata una settimana, al di là di quello che è accaduto sul campo, è stata una settimana di molte chiacchiere, di molte polemiche, soprattutto intorno al nome e alla figura e al personaggio di Mario Balotelli. Beh, insomma, abbiamo fatto una lunga chiacchierata con Gigi Cagni, sentiamo. Con il tramontare dei grandi circhi equestri, una professione che richiede nervi d'acciaio, pazienza e prezzo della morte, quella del domatore, ha ormai pochi superstiti cultori. Eccone uno che evidentemente è della buona scuola. Ripeto, Mario ha 23 anni, è un giocatore importante, non è più un bambino. Con Andrea non c'è stato nessun chiarimento, perché prima non c'era stato bisogno di mettere una regola. D'ora in avanti la regola c'è ed esiste per tutti, quella che quando un giocatore esce fuori dal campo, a meno che non esce in barella o con qualche gamba rotta e deve andare nello spogliatoio a curarsi con il medico, deve andare e deve guardare la partita insieme ai compagni. Prima non c'era, adesso c'è questa regola che vale per tutti. Non dovesse essere rispettata questa regola, c'è una forte multa da parte della società e un mese di fuori rosa. Facile? Facilissimo. Semplice? Semplicissimo. Io non so quante volte nel corso della sua lunghissima carriera Gigi Cagni abbia dovuto fare il domatore. Ciao Gigi, buongiorno. Ciao Gigi, moltissime volte. Con chi? Con i presidenti o con i giocatori? Con i presidenti o con i giocatori? Beh, sai, prima con i giocatori, perché prima il rapporto con le società era totalmente diverso. Oggi anche con le società, ma non soltanto, con i media, con tutti. Sì. È una guerra continua ed è brutto dirlo, ma è la realtà. E mi sembra la cosa, a parte io do per scontato certe cose quando invece non lo sono più, che un giocatore esce dal campo e sta con i propri compagni, insomma, qualsiasi sia la decisione dell'allenatore, qualsiasi sia il suo stato d'animo, è professionale, ma poi non soltanto professionale, uno è attaccato, vedi, torniamo al discorso che ormai della maglia, tutti che baciano sta maglia, la maglia non sanno neanche più cosa sia loro. Sì, magari neanche i compagni, magari neanche il tornaconto della squadra, cioè, al di là della maglia, poi. Però, Gigi, permettimi di essere malizioso. Io non ci vedo chiaro in queste dichiarazioni molto populiste di Allegri e di Conte. Voglio essere malizioso. Pirlo in scadenza di contratto con un erede naturale che si chiama Paul Pogba, il Milan che bacchetta il suo miglior giocatore, cioè Mario Balotelli. In altre situazioni abbiamo visto magari punizioni, magari facevate i domatori all'interno dello spogliatoio, ma poi davanti ai microfoni, e no, ma questo prende un sacco di botte, e no, ma bisogna tutelarlo, punto. Mentre queste pubbliche accuse nei confronti delle superstar mi suonano un po' strane. No, direi no. Perché prima li hanno difesi a spada tratta, hanno fatto quello che hai detto tu. Oggi, sai, quando arrivi al culmine, voglio dire, ma è al culmine che non si dovrebbe arrivare, questo è quello che dico io, ma ormai non ci sono più regole, non ci sono più valori, e questo è una cosa, era inevitabile, come inevitabile lo sfascio di tutto, no, di quello che sta accadendo. Sì. Se tu non hai non dai all'allenatore la possibilità di fare l'allenatore è quello che ha la responsabilità unica del gruppo, poi l'allenatore se serve ti chiede aiuto. Oggi invece l'allenatore non ha più questo valore, non ha più questo valore perché non gliel'hanno più dato, perché i presidenti non continuano a non capire che l'allenatore va scelto all'inizio dell'anno, non cambiarne tre all'anno. Oggi sto vedendo un calcio che sarà sempre peggio, ma perché? Ma sai, è possibile vedere le prime 3-4 partite, no? Dico le prime 2-3 partite che tutti si difendono, tutti non rischiano niente, tutti sono lì sparagnini. cioè non esiste, questa è una cosa che io non ho mai visto, ma ti credo, l'allenatore appena sbaglia una partita salta la panchina, cioè, e questa è colpa anche dei media, è tutto un gioco che, quello che non sta accadendo purtroppo, secondo me, è che dovremmo chiederci tutti dove vogliamo arrivare. Sì, intanto, se vogliamo il bene del calcio, questa non è la strada. Intanto Gattuso via, ma con Zamparini che l'aveva dichiarato prima, no? Alla vigilia, cioè a maggio, ma sì, gli firmo l'esonero prima di firmargli il contratto. Giampaolo che oggi è andato a firmare la sessione con Brescia. Niente, questo, Giampaolo è lui che probabilmente le pressioni, adesso io, difficile parlare di una cosa che non conosci, ma siccome mi sembra che la società l'abbia sempre difeso, penso che sia lui che in questo momento non riesce a sopportare le grosse pressioni, perché una protesta come ha fatto certi tifosi del Brescia non sono quelle cose che secondo me ti possono fare arrivare a una decisione di questo tipo, quindi probabilmente si deve chiedere qualcosa a lui. Adesso io ripeto, non entro in merito, perché poi è un bravo allenatore, quindi probabilmente sarà un momento un po' delicato. Ma ci portano a questo, capito? Al di là del fatto che i presidenti dovrebbero cominciare a capire che la meritocrazia esiste, bisognerebbe che capissero anche questo, perché tu non puoi dare la squadra, adesso non sto parlando di Giampaolo, sto parlando in generale, sì, anche Gattuso, Gattuso diventerà un grande allenatore, stanno sfornando allenatori con grandi nomi, ma è possibile che io e tutti i miei colleghi della nostra generazione volevamo iniziare dalla C2, dalla primavera, per imparare, per crescere e arrivare poi alla categoria e mantenerla. Sì. Oggi sfornano gli allenatori che non vogliono andare in C1, C2. Vogliono andare in Serie A. Vogliono andare in Serie A. Vogliono andare in BOA. È tutto facile. Signor Cagni ha ragione, ma chi glielo spiega a Zamparini che fa e disfa a piacimento? Oppure Pippo da Piacenza, chiedete a Cagni se era facile gestire Inzaghi e Moretti a Piacenza. Oppure ancora, Cagni sta parlando da giornalista, con Antuono Torino disse il mio sbaglio è stato quello di non mandare via i vecchi. Capito Gigi? Ma sì, sai, tutte quelle cose, situazioni che uno le gestisce secondo di quello che è il momento, e lì l'esperienza fa moltissimo. Fa molto. Ed è quello che stavo dicendo prima, bisogna che si ritorni a questo, no perché io voglio lavorare, perché ne ho voglia, ma questo non c'entra niente, perché è una cosa naturale, è fisiologico. Non si nasce imparati, dicono da qualche parte. Sì, dicono da qualche parte, però i giocatori pesano sempre di più. Ad esempio, dicevo prima di Canio, pesano sempre di più, no? Pesano sempre di più in certe decisioni. Ma cosa pesa dei giocatori? Il contratto. Ma certo. Tu non vali niente, loro hanno contratti biennali, triennali, quadriennali di cifre che è meglio lasciar perdere a nominarle, che non esiste al mondo, capito? Infatti. Se non si fa una calmierata in questo senso. Ma poi non hanno colpa i giocatori. Adesso tu prima della pubblicità hai accennato il discorso Balotelli. Dimmi come la pensi. Ma no, ma Balotelli non ha colpa. Lui ha delle colpe sicuramente, certo. Ma non ha colpa lui. Se questo sistema che l'ha fatto crescere così, perché le pedate nel culo bisogna dargliele quando aveva 15 anni, 16 anni. Ma siccome era il giocatore più bravo, sicuramente nel settore giovanile, allora a lui gli permettevano tutto. Le persone che gli stanno intorno non gli fanno gli stanno intorno solo perché è Balotelli, nessuno gli insegna, perché lui è un fuoriclasse, non è un campione, deve diventare campione, perché il campione è un'altra cosa, lo è sia tecnicamente che moralmente. Allora lui questa cosa la deve imparare, ma se non gliela insegna nessuno e non gliela ha insegnata nessuno, lui ha colpe relative. Chi dovrebbe insegnargliela a questo punto della sua carriera? Vabbè, adesso ci sono l'allenatore, i suoi compagni più vecchi, perché i suoi compagni più vecchi non devono permettergli di fare certe cose, quelli che hanno più esperienza. Ma finché il giocatore ti fa vincere, finché fa gol, hai difficoltà, perché poi la società sta dalla parte del giocatore più forte. E chi ha le palle per prendere il giocatore e attaccarlo al muro come facevamo noi, non ci sono più. Ecco perché l'allenatore conta di più. Ieri sulla Gazzetta c'è un articolo, un titolo che è emblematico, che hanno fatto vedere le 5 squadre in questo momento che sono al meglio e danno il merito agli allenatori. I presidenti devono capire che l'allenatore oggi conta molto di più di una volta, perché non ci sono più leader in squadra e il leader è l'allenatore, perché i giocatori li vedi qua, vengono fuori e mettono la faccia quando le cose vanno bene, quando va male spariscono tutti. Questo sì. E prendono la scusa della paura, della tensione, tutte balle. quanto valgono adesso Benitez al Napoli, Mazzarri all'Inter e Garcia, che ha ricostruito la chiesa al centro del paese, a Roma? Secondo me in questo momento quello che vale più è Mazzarri. Gli altri valgono tanto, ma quello che vale più è lui, perché lui ha trovato una situazione più difficile. Forse più facile, perché fare peggio era impossibile. Ma lui è riuscito, io l'ho detto all'inizio dell'anno, che lui ci sarebbe riuscito perché è un allenatore di grandissima esperienza. Gli altri due allenatori che sono molto bravi, uno molto esperto come Benitez, sì, ha trovato una situazione molto più facile, parlo di qualità dei giocatori, sì, certo, adesso in questo momento. Certo. Che non ha avuto Mazzarri. Adesso parlano di Alvarez, ma Alvarez l'anno scorso sembrava un morto. Adesso è giocatore. Qualcosa l'allenatore ha fatto probabilmente, no? Nella mente, nel corpo, sai, fare l'allenatore non vuol dire soltanto andare sul campo e fare la tattica, eh? Sì, no, certo. Oggi fare l'allenatore è quello che leggevo di Mazzarri, che faccio io e faccio allenatori esperti come me, sai, le riunioni singole di gruppo fuori dal campo, che se non sa niente nessuno e sei continuo, poi ti chiamano Martello, no? Martello, ma è così. Gigi, ti chiedo ancora una cosa ed è questa: io ho l'impressione che Conte sia uno di quegli allenatori che ti chiedono tutto, ti chiedono il sangue o qualcos'altro, magari è poco elegante dire in radio, come Mourinho, come questo tipo di allenatori un po' ossessivi. Ho la sensazione che più di 3 anni non si possa tenere un gruppo giusto, sotto pressione. Ma difatti io penso che andrà via a fine anno prossimo. Lo penso anch'io. Quasi sicuramente, perché anche per lui, perché poi sai, io l'ho provato a Piacenza, il quarto anno mi sono trovato in una situazione che ho detto c'è qualcosa che non va, perché sapevano già quello che avrei detto con gli stessi giocatori, chiaramente, e avevo avuto gli stessi giocatori per 3 anni di seguito, quindi sapevano già tutto, e invece tu devi stupire, devi, non puoi essere una persona che entra e è tutto piatto. Sì, certo. Gli spogliatoi vanno, come posso dire, vanno resi allegri, vanno influenzati, vanno condizionati. Gigi, maestro, è sempre un piacere, grazie. Grazie per il maestro. Tutti convocati magazine. C'è però un altro Balotelli nello sport italiano, un giocatore di basket che aveva il talento e in questo caso i punti nelle mani del Super Mario milanista. Mario Boni, oltre 11.000 punti in carriera segnati, terzo nella storia del nostro basket. Quanti punti segnati? Interista, tifoso di Balotelli e grande personaggio. E allora sentiamo cosa ci ha detto. Allora, sarà il nome Mario. Fatto sta che io ne conosco uno che non è molto lontano da Balotelli come talento e neanche come testa calda, terzo nella storia del nostro basket ad andare oltre quota 11.000 punti segnati, primo in classifica credo nella storia del nostro basket alla voce insulti presi, si chiama Mario B. Mario, ciao, Boni. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao Mario, grazie per avermi convocato. Allora dimmi prima una cosa. Tu sai, non ti chiedo quali e quanti insulti hai preso in carriera, perché sei stato uno dei giocatori più amati ma anche più odiati della storia del nostro pallacanestro per come interpretavi il gioco, no? Sì, esatto. Sbaglio? No, esatto, giusto. Ok, quante provocazioni ricevevi in campo ad ogni partita? Perché gli avversari ovviamente sapevano, Mario Boni, rompigli le scatole. Sì, sì, no, ma questione Balotelli, razzismo e tutto, tu so che è una presa di posizione piuttosto forte, giustamente. Io però voglio vedere, cioè, tutto quello che succede, come non come razzismo fine a se stesso, perché il razzismo si vive ogni giorno nelle strade, nella quotidianità. Io voglio prendere quello che fanno i tifosi più come un modo per far perdere la concentrazione oppure per irritare un giocatore, anche perché altrimenti non capisco la differenza che c'è tra fare i bu a Balotelli, ai giocatori di colore, e dire figlio di puttana a Mario Boni. Quindi ecco, cioè, non riesco a capire questa differenza. Io credo che sia maleducazione, ecco, questo sì. Sì, è maleducazione, però non lo so, a me quel bu sa di qualcosa di molto più meschino, no? È chiaro che poi se stiamo qui a mettere sulla bilancia gli insulti, il letame da una parte e quello dall'altra, a vedere quale pesa di più, non lo so. Mi viene da dire che

Anche perché poi, ripeto, il giocatore deve accettare il ruolo. Io credo che Diner essere dietro a Cinciarini sia per lui, magari ognuno ha la sua visione della pallacanestro dei ruoli, però ecco, è un giocatore che ha bisogno di giocare tanti minuti e avere la squadra in mano. Grazie Mario. A voi, ciao. A presto, ciao. Grazie a Mario Boni. Allora, è un momento speciale, vi saluto innanzitutto, vi ricordo che domani dalle 17 alle 19 c'è Giovanni Capuano e sarà in sua compagnia Pierluigi Pardo, poi interverrò anch'io a rompere le scatole, ma soprattutto l'appuntamento importante è per lunedì, quando partirà il palinsesto nuovo di Radio 24 e soprattutto la nuova stagione di Tutti i Convocati, che, come ho detto l'altro giorno, grazie al successo planetario che ha avuto questo programma, sarà più lungo dalle 14 alle 15.20 e ormai non è più un segreto, Pierluigi Pardo sarà il mio compagno di viaggio. Franco Piantini, autore di questo programma, Fabio Cantadone in regia. Ciao a tutti, a lunedì.